Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Tutto incominciò di ritorno dal piccolo viaggio di nozze, in quelle due stanze che un amico mi affittò nella sua grande villa nella periferia della città. Una villa della seconda metà dell'Ottocento, inserita in un bel contesto paesaggistico della mia città toscana. Sono Vanni Melani e abito a Pistoia, lavoro nei pressi di Pistoia, faccio lo scultore. L'odore del bucato della tua mamma, quando vivi fuori e torni a casa e la mamma ti fa il bucato, quell'odore ti pervade come un fiume in piena, i pensieri e i ricordi d'infanzia ti attraversano. Massimiliano, l'odore, non il profumo, l'odore della mia più cara amica scomparsa 15 anni fa, a volte lo sento, inconfondibile, in un golf, in un fermacapelli, in una stanza, così, casualmente, e sorrido. Susanna. Buongiorno a tutti, sono le 16:09 in punto, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e oggi raccontiamo una storia che sembra surreale. Vanni, quando ce l'ha scritta, dice: lei non mi crederà, ma la storia è vera, da me realmente vissuta. Ebbene, oggi parliamo di una cosa che effettivamente non è tanto considerata ed è uno dei sensi forse più bistrattati. Più tardi ne parleremo tra l'altro con una esperta di odori, una persona che di mestiere fa il naso, ma più tardi. Prima ascoltiamoci una storia che parla di odori, gli odori più ricorrenti nella vostra vita, quelli che vi ricordano istantaneamente qualcosa o qualcuno. 349-238-6666, questa qui è la storia di Vanni. ...1964... mi sposai, ma non voglio parlarvi di questo. Voglio raccontarvi la storia di una compagnia che per 37 anni di seguito, oserei dire quasi fisicamente, ha accompagnato il mio e il nostro matrimonio. Incominciò di ritorno dal piccolo viaggio di nozze in quelle due stanze che un mio amico mi affittò nella sua grande villa in periferia, una villa della seconda metà dell'Ottocento. Tornati che fummo da quel viaggetto, dicevo, prendemmo dimora in quelle due stanze con allegria e speranzosi per un futuro felice e prospero di buoni eventi. La sera stessa ci coricammo a letto in quella grande camera con il soffitto decorato con abilità, con motivi floreali in stile Liberty. Ammiravamo la stanza con un bel armadio regalato da mio padre, due poltroncine comprate d'occasione da un rigattiere e un tappeto ai piedi del letto. A un certo momento incominciamo ad avvertire tutte e due uno strano odore, diciamo pure un odore sgradevole. Questo odore non era lì fisso, sembrava fluttuare. Ora arrivava piano piano, poi si faceva più accentuato, ora forte, un vero puzzo di materia organica andata male, un ratto, un pesce marcio per capirci. E poi via, scompariva. Si apriva la finestra, si richiudeva e dopo sembrava tutto finito. Per giorni non sentivo più quel puzzo, tuttavia ogni tanto, non saprei dirvi ora i tempi, tornava sempre in camera, vicino al letto, sopra al letto oppure in fondo. «Ecco cos'è!» esclamai. «Il tappeto che ci ha regalato tuo zio. Sicuramente ci sono dei collanti animali che certe volte, con l'aria più umida, emette quei puzzi. Mettiamolo al sole, vedrai che cessa». E così facemmo. Lo mettemmo al sole ripetutamente per diversi giorni. Sembrava che la cura solare avesse funzionato, invece, dopo qualche mese, il puzzo ritornò. Sempre in camera, con la stessa modalità, ora lieve, poi più forte, poi ancora lieve, e via. Avvenne che dopo un anno ci trasferimmo in un'altra abitazione nel centro città, un quartiere in un edificio seicentesco particolarmente bello, con 5 grandi stanze, e nel tinello mettemmo il tappeto, con sopra tavolino e sedie. Il cattivo odore non si fece attendere. Eccolo ritornare alla solita maniera. «Basta, questo tappeto lo butto», dissi, e immediatamente lo portai per strada nel cassenato della nettezza urbana. «Finalmente ce ne siamo liberati. Senti, ha lasciato ancora qualche strascico», dissi, e questo perdurò per qualche minuto. Avvenne ancora che dopo un paio di tempo, dopo forse qualche mese, sempre lì nel tinello si ripresentò il puzzo, ma chiamiamolo puzzone. E di seguito demmo responsabilità alla casa antica, il pavimento vecchio, per cui mia moglie ed io ci mettemmo a pulire con detersivi e sgrassatori profumati tutti i pavimenti. Un grosso lavoro che sembrava avere dato i suoi liberatori frutti. Passarono settimane, forse mesi, e non ci pensavamo più. Ma la pia illusione fece posto alla realtà del puzzone, che si presentò nuovamente, sempre nel solito tinello, per poi scomparire, così come si era manifestato. L'odore, l'odore che sentivo è un odore che non si può sbagliare con altri, anche se può sembrare, per esempio, a un pesce andato a male, a una l'odore di carne di carogna, diciamolo pure. Quindi è un odore particolare, particolarmente come dire, riconoscibile subito e senza poterlo sbagliare con altri, diciamo così, naturali. Quegli 8 anni di permanenza furono saltuariamente, con le stesse modalità, caratterizzate dall'arrivo del puzzone, il quale, come arrivava inaspettatamente, allo stesso modo, in pochi minuti consumava la sua presenza e se ne andava. Il mio lavoro mi portò all'estero e, con moglie e figlia, ci trasferimmo in Svizzera. Non pensammo più al puzzone e trascorremmo quegli anni dimentichi di quelle visite. Rimpatriai e ripresi il mio lavoro di insegnante nella mia città. Riprendemmo possesso della stessa abitazione con le saltuarie visite del puzzone che non si faceva attendere a lungo. Arrivarono gli anni duri e drammatici della malattia del babbo con la sua scomparsa e nello stesso mese mi trasferì in una nuova casa, in un paese da lì distante pochi chilometri. Casa nuova, muri nuovi, imbiancatura nuova e pavimenti altrettanto nuovi. Non credevamo al nostro naso. Al primo piano, in un ingresso di accesso alle stanze, ci aspettava il puzzone. In maniera tardiva maturai l'idea di una presenza, non certo misteriosa, che si manifestava. Per la prima volta nella mia vita mi trovai davanti ad una vera manifestazione che relegavo solo ai film del terrore o ai racconti di Edgar Allan Poe, a mali estremi, estremi rimedi. Avevo sentito parlare e letto che certe presenze si potevano esorcizzare, si potevano cacciare. Andai quindi dal mio amico, Don Antonio. Gli spiegai la mia storia, fino ad allora per pudore mai raccontata. «Antonio, puoi fare qualcosa?» «Certo», mi disse. «Proviamo un rito specifico per il caso», rispose. E con i paramenti dell'occasione, Don Antonio venne a casa e officiò il rito. Il puzzone scomparve. Non si sentì più. Sembrava che finalmente ci fossimo liberati di quella presenza. In effetti, mai più fummo visitati dal soggetto in questione, ma forse lì, in quell'abitazione. Da tanti anni, infatti, avevo una casetta in montagna, comprata a suo tempo da mio padre e da me con amore e tanto lavoro restaurata. Era una casa veramente magica, nelle sue caratteristiche di casa di montagna in pietra e in legno, due camini, i pavimenti in cotto, insomma, un rifugio da fine settimana e da tempo libero, dove trascorrevamo grandi momenti di serenità. Un venerdì sera arrivavamo in quella casa, come sempre, accesi i camini, la stufa, e secondo la ritualità, ogni fine settimana cenammo. Mia moglie si avviò in camera ed io di lì a poco la seguo. Salgo le scale, apro la porta, faccio per entrare in camera, ma appena sulla soglia, un puzzo di marcio mi bloccò. Mia moglie era già lì, a letto. «Senti che puzzo», mi disse. «Sì, lo sento». Guardo sotto il letto, negli angoli, nell'armadio, e riavviso dopo tanto tempo il puzzone. Si era ripresentato con tutta la sua veemenza e secondo il suo stile. E infatti dopo poco ci lasciò. Di sovente mi recavo da solo in quella casa in montagna e mi veniva in mente il puzzone e non vi nascondo che mi veniva un po' di timore che da un momento all'altro potesse manifestarsi. Mi coricavo a letto e annusavo l'aria alla ricerca preoccupato del suo arrivo. Una cosa era certa, che la sua presenza era sempre collegata a mia moglie. Mai si è presentato quando mi trovavo da solo o quando mancava lei. L'ultima volta che io sono stato nella casa di montagna e ormai già dormivo in camere separate con mia moglie dall'altra camera mi dice: «Vanni, c'è il puzzone, c'è il cattivo odore». E io dissi: «Guarda, è roba tua, perché a me non, quando non c'è te non viene». E quella è stata l'ultima volta che è apparso, sia a me e sia a mia moglie anche, che non mi risulta che sia tornato altre volte. Quante volte ancora abbiamo avuto quello sgradito ospite e quindi con rassegnazione sopportavamo impotenti la sua presenza? Per quanti anni ancora? Il mio matrimonio non era mai andato bene. In quella casa di montagna ci andavo da 2 o 3 anni ormai da solo con il mio cane. Alla mia famiglia sembrava non interessare. Quanta tristezza vedere le piccole impronte delle mani dei miei bambini qua, sui muri. Mia moglie era totalmente disinteressata della casa. In quel periodo vivevo abbastanza solo e la compagnia inseparabile era Charlie, il mio cane. La sua presenza mi aiutava, ma metteva ancora più in evidenza l'assenza degli altri. Per cui la gioia e la grande serenità di quelle mura si trasformarono in angoscia e tristezza. Si aggiunse a questo anche la necessità di trovare del denaro per riparare la mia bocca, dal momento che il dentista mi presentò un conto di 15 milioni di lire. Dissi: vendo la casa. Nel 2001 stipulai il contratto e mi recai in quella casa per l'ultima volta con mia moglie per prendere gli oggetti essenziali. Portai via poche cose poiché mi dispiaceva smembrare 30 anni di vita e di affetti. Volli lasciare quasi tutto, così, per ricordarmela come era fino a quel giorno del distacco. Ormai con mia moglie era in rotta e da mesi non dividevamo più la stessa stanza. Così, quell'ultima notte, in quella casa di montagna, separati, ci coricammo in due camere diverse. Coricato a letto, mi sento chiamare. «Vieni su, c'è il puzzone!» «Il puzzone è tuo amico, sbrigatela da te», dissi. Spensi la luce, mi addormentai e il giorno dopo ebbe per me inizio una vita diversa. «Voglio il tuo profumo!» Davanti a un'opera d'arte che immagino sua, Vanni, è di profilo, ha i capelli bianchi e tiene tra le mani un corpo umano, chiaramente un corpo umano costruito forse con del legno, essendo lui uno scultore, che forse, ripeto, forse è un corpo umano che rappresenta Gesù Cristo. La cosa che non si percepisce da questa foto, chiaramente, è il puzzone. 349-238-6666, diciamo che sorvoliamo su tutti i messaggi che sono arrivati che attribuivano l'odore alla moglie. Era qualcosa chiaramente di diverso quello che racconta, era quasi in metafora. 349-238-6666, noi parliamo di odore in questa puntata grazie al racconto di Vanni, però abbiamo deciso, visto che appunto quando non ne sappiamo lo chiediamo a qualcuno che ne sa più di noi, di interpellare una donna, una signora, una professionista che fa un mestiere che credo, da quanto ho letto, è l'unico in Italia ed è Laura Tonatto. Laura, buongiorno. Buongiorno e grazie per questo invito veramente molto particolare e complimenti devo dire al vostro scrittore perché ha narrato una cosa in modo veramente eccellente. Laura, grazie mille. Lei di mestiere fa il naso, giusto? Sì, il mio lavoro è quello di creare profumi, ma è soprattutto quello di ricordare le note che abbiamo messo insieme, tutti i nasi fanno questo, in una olfattoteca e di prendere queste note al momento giusto per la creazione che intendiamo fare. Quindi la memoria olfattiva è una memoria molto forte, molto più forte di quella visiva, per esempio. Sì. E in questo caso è ben raccontata perché quella casa verrà ricordata per tutta la vita con quel puzzone, certo. Ma quindi lei innanzitutto, insomma, un po' di informazioni, le chiamiamo note olfattive, giusto? Cioè i profumi sono si compongono di note diverse, stiamo dicendo? Di note, esatto, le note sono formate dalle essenze che appartengono alle famiglie olfattive, nota di testa, nota di cuore, nota di fondo e poi ci sono le tonalità agrumate, fiorite, cipriate a seconda di quello che intendiamo fare. Quelle naturali sono relativamente poche, alcune centinaia, quelle di sintesi sono migliaia e quindi naso deve comporre con queste materie prime. Laura, possiamo partire un po' dall'inizio, perché immagino gliel'abbiano chiesto, no? Più di uno gliel'abbia chiesto. Come si diventa un naso? Cioè, lei come ha fatto? ma credo, per me, io parlo del mio percorso personale, credo che sia molto dovuto a, proprio a un'impostazione naturale. Ecco, io il primo ricordo che ho è, risale a quando avevo 3 anni ed è un ricordo oltre che visivo, emozionale, proprio olfattivo. Io ricordo l'odore del sangue perché ero caduta e mi ero ferita il volto e ricordo l'odore del sangue, l'odore di mia madre che mi tamponava questa ferita con l'acqua che era clorata, e quindi ricordo bene anche questo odore di cloro. Però da lì a poi farne un mestiere, insomma, ci passano, cioè, come ci si forma per diventare, a parte che non è un mestiere che consiglierei essendo lei l'unica in Italia, quantomeno difficile. Ma io invece faccio tanti corsi anche per l'Università di Cosmetologia di Ferrara e invito proprio le mamme a stimolare l'olfatto dei loro bambini fin dall'inizio. Noi, quando nasce, l'essere umano riconosce la madre attraverso l'olfatto, il primo riconoscimento olfattivo non è visivo. E anche l'ultimo, se vediamo all'esistenza terrena, è di tipo olfattivo, l'odore della morte. E quindi l'olfatto ci accompagna veramente nella gioia, nel dolore, nella bellezza quotidiana. Occorre, secondo me, ma veramente per tutti, aprire le narici, inspirare profondamente e rendersi conto che un quadro può essere formato, così come spesso accade nei quadri di Caravaggio, ma in tutti i grandi artisti, la letteratura, il cinema può essere profumato, si può vedere un film annusandone i profumi, come volle Visconti per esempio nel girare la scena del Ballo del Gattopardo. Laura, io leggo di Zagara. Io leggo qua da una recensione del New York Times su un suo profumo, in cui si dice che odorare i suoi profumi è come visitare il Museo d'Arte Moderna di New York. Di fatto sono delle opere d'arte le cose che lei crea, quello che lei crea. Io mi considero un artista, nel senso che veramente io ho bisogno di esprimermi in questo modo. E Chandler Burr, che è il critico del New York Times per i profumi, ha definito i miei profumi in questo modo. Credo di avere sempre rispettato quelle che sono le mie esigenze artistiche personali. Io ho abbinato da sempre la letteratura, la musica. Ho sentito la Regina della Notte di Mozart e non ho potuto fare a meno di crearne il profumo. Ma questo deve essere per tutti. Quando un bambino sbuccia un mandarino, la mamma dovrebbe fargli sentire l'odore della scorza, del seme, della foglia. Insomma, una forma di educazione, all'olfatto, esatto. Insomma, ci sta raccomandando. Ed è molto vero che le case hanno un odore. Entrando, certo, in una casa, noi sappiamo se queste persone che la abitano cucinano, hanno animali, sono persone pulite, se si profumano, e ci danno veramente quello che è il senso profondo di quella famiglia. Certo, raccontano una storia in qualche modo. Laura, la regina Elisabetta ha acquistato o comunque ha usato 4 suoi profumi. Sì, sua maestà nel 2008 mi ha incaricato di realizzare per lei una collezione di profumi. E che profumi ha preso? Il lavoro è andato avanti veramente molto a lungo, perché sono stati 2 anni di lavoro ininterrotto e magicamente tutto ha funzionato, perché io veramente all'inizio non credevo assolutamente, pensavo fosse uno scherzo di un mio amico che vive a Londra, che l'ha chiamato dicendo guarda che simpatico, c'è la regina che vorrebbe un profumo. Assolutamente. Poi invece durante il lavoro ho pensato sempre che poteva arrivare qualcuno più inglese di me, perché tutti i fornitori della Casa Reale sono inglesi, o più bravo di me semplicemente. E poi ci sono state richieste, insomma, molte controlli e garanzie, certo, sulle materie prime, quindi ecco, devo dire che questo lavoro è stato bellissimo, importantissimo. Immagino. Perché ho potuto conoscere una persona del tutto normale, apparentemente normale, la bellezza della regina Elisabetta. Io purtroppo, Laura, devo chiudere e la devo salutare, però un'ultima cosa, ha fatto un profumo anche per Totti. Che profumo ha preso Totti? E Totti vuole il profumo di mare. profumo di mare. Gli piace molto questa tonalità che trovo gli si abbini molto bene, perché sa di libertà, è una persona molto fresca, frizzante, libera. Se volete avere insomma informazioni, basta che andiate su Google Laura Tonatto e trovate tutto. Laura, la ringrazio ancora moltissimo. La mia email è lauratonatto@gmail.com. Addirittura, perché ho cambiato. Diretta, sì. Perfetto. Grazie mille. Grazie mille. A presto, arrivederci. Buona giornata. Salve. 349-238-6666. Non ho più tempo, lasciamo la linea ad Oscar Giannino. Io ringrazio Filippo Aureggi in regia, Margherita Ina, ringrazio soprattutto Vanni e Laura Tonatto, ovviamente. Ma Vanni, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Mario, ho 57 anni, vivo a Milano e faccio il giornalista tecnico freelance. La storia di domani è la mia e parla della mia maestra della prima elementare e di un suo gesto molto carino che ha avuto nei miei confronti e che non ho mai dimenticato. Questa è la mia storia e io sono qui.